24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare, la droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni, si sente un po' profeta. Ragazzi, hanno fatto anche un remix di questo orrido rap di Carlo Giovanardi. Non si muore col fumare. Io ti dico occhio. C'è dosaggio modico. Non c'è dosaggio modico. Leggere non esiste. La mia legge è chiara. Cannabis o ero, non c'è da far la tara. Una roba improponibile neanche nelle peggiori radio di Caracas. Verrebbe da dire, parafrasando un vecchio adagio di una pubblicità. C'è l'altro rapper di nome Faccicoria, dice colpa mia per la sua brutta storia. Cicoria, la storia, la rima baciata di Giovanardi, vabbè, ma insomma è il modo per così rallegrare un po' una giornata che leggendo i giornali è cupa, noiosa, senza argomenti. Mamma mia, se non i soliti, la corruzione, ma adesso anche la Guardia di Finanza. Vabbè, buongiorno, questo è 24 mattino alle 6.34 minuti, è tornato Peter Bescapè in regia, il nostro alpino. Dove sei stato? A reppare, a fare questo remix. L'hai fatto tu, di la verità. L'hai fatto tu. Senti come pompa, mamma mia. Saluto Miriam Lucchetti in redazione e il nostro Parlamento può aprire. Speriamo che Giovanardi non la porti in Parlamento questa, perché sennò il caffè volentieri a tutti quanti. Allora, ho chiesto ieri, l'abbiamo lanciato ieri questo rap, voglio chiedere anche a Carlo Rienzi anche oggi, presidente del Conacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno. E anche a voi noti. E Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, eccoci Maurizio, buongiorno. Subito un voto artistico al rap di Giovanardi. Dai Maurizio, su, un voto artistico basso, però l'idea non è male. L'idea non è male, dai. Se non so se l'abbia fatto davvero lui o non gliel'hanno pure scritto, non lo so. È una risposta. Sì, vabbè. Ma è spiritosa. Sì, d'accordo. Vabbè, il voto, Rienzi, il voto, dai, su, bisogna dare un voto. Allora, Giovanardi è simpatico perché dice delle cose giuste a volte e poi spara delle cazzate enormi senza farsi quasi accorgere, perché è bonario, come dire, è bonaccione. Così, alla bodedese. Sì, a me è simpatico, devo dire. È simpatico. Vabbè, ieri il direttore Ivete Felli ha dato uno per l'impegno, uno al voto artistico, stiamo parlando del voto artistico. Vabbè, niente, vi astenete dal voto. Allora, di che... Il mio voto è 7. Sette! Maurizio Tortora, quindi uno più 7. La media è 4. Effettivamente ci vogliono almeno 2 o 3 voti ancora. Chiediamo a Rienzi che voto gli dà. Voto Rienzi. No, io credo che deve fare i corsi di recupero, poi vediamo a settembre. Ah, settembre, rimandato a settembre. Vabbè, che dobbiamo fare? Adesso siamo garantisti, C'è pure la Guardia di Finanza, il numero 2 della Guardia di Finanza è indagato per corruzione. Caro Rienzi. Ho capito. Però pure il fatto della responsabilità dei magistrati è giusto. Eccolo là. Perché più ma è tanto, giusto tanto che al Senato, sì, ma tanto al Senato morirà tutto. Parliamone per grave. 3 giorni e poi... Non va bene, perché se la Camera ha approvato, ossia pure con i leghisti, sì, non si deve dire poi cambiamo. Vuol dire che quella è la volontà degli italiani, ma non deve fare così Renzi. Vabbè, poi c'è il Senato. Ho capito, ma non c'entra. Non dire che avete sbagliato ad approvare, cambiamo. A parte che è una norma sacrosanta, perché la responsabilità deve essere di tutti in Italia, sì, non solo della Guardia di Finanza soprattutto, ma anche dei magistrati, proprio perché possono agire in più coscienza e responsabilità, con più risultati. Invece così la gente pensa che sono impuniti, dice, allora gli unici impuniti poi è quando fanno delle cose sbagliate, perché sapete anche che c'è un 20% di processi che finisce al contrario di come sono iniziati, cioè vengono mandati in galera gente che poi viene assolta. Sono errori. E questo, su questo so che Maurizio Tortorella adesso si scatenerà. Sai che Maurizio Giachetti, che è un noto garantista del Partito Democratico, è radicale, quelli che fecero il referendum del 1980, Ha detto ricordiamoci Tortora, viene sempre sbattuto Tortora, tra l'altro. I casi sono tanti, ma tu sai quanti sono stati dall'introduzione della legge Vassalli, che fu la legge che tradì il referendum del 1987. Ricordo, gli italiani votarono per la, a quel referendum per la responsabilità civile dei magistrati all'80,2%, sì, e poi fu approvata questa legge, la legge Vassalli, che stabilì quali erano le regole per arrivare a stabilire se un magistrato era o no responsabile di questa cosa. Quanti magistrati sono stati condannati? No, magistrati condannati nessuno. Ci sono state 7, ripeto, perché nessuno ci crede, non lo richiedo mai, la gente mi chiede sempre di ripeterlo 3 volte, 7 cause accolte. Ne sono state presentate 410 richieste di risarcimento per denegata giustizia, quindi 16 all'anno, e alla fine sono state accolte 7, cioè l'1,7% del totale, di un totale irrisorio, perché appunto sono pochissime. Ma sai perché? Lo sapete perché? Perché questo è l'unico caso al mondo nel quale, per arrivare a stabilire la responsabilità di un magistrato, servono 9 gradi di processo. Perché tutto qua succede così. Prima io sono stato, che ne so, sostengo che un magistrato mi ha accusato illegittimamente, e allora vado in quel tribunale e dico, vorrei che il tribunale si pronunci sulla ammissibilità del mio ricorso, e il tribunale dice sì, mettiamo. Allora il magistrato fa ricorso, primo, secondo, terzo grado, arriviamo in Cassazione, finché a quel punto mettiamo che mi diano ragione, io posso finalmente partire a quel punto, primo, gradi, secondo e terzo grado, per stabilire se ho ragione. Mettiamo che sia arrivato fino in fondo e anche la Cassazione abbia detto sì, quel povero uomo è stato condannato ingiustamente, per alla fine per potermi rivalere contro il singolo magistrato altri 3 gradi di giudizio, fino a quel punto paga, fino a quel punto paga altri 3 gradi, insomma, no, 9 gradi, vabbè, eccola lì la casta dei magistrati, forza Renzi. Ma dai, non è solo il problema, è la giurisdizione domestica, cioè in realtà magistrati che giudicano altri magistrati, come, che ne so, i dipendenti della Corte Costituzionale, ma chi sono giudicati chi dalla deve, Corte, adesso io non è che voglio dalla Camera, ma ho capito, ma se c'è un giudizio, chi deve giudicare? Un altro magistrato? Bisogna, che facciamo? Bisogna passare ad altri organi, per esempio all'antitrust, che ne so, un'autorità indipendente. Ma cioè, non si può far giudicare Tizio dal parente di Tizio, ma allora, dal parente no, però da un altro magistrato. Sta seduto nella camera a fianco dove lavorano tutto il giorno insieme, non è possibile una cosa del genere, no? Non posso chiedere più niente a Maurizio. Ma sennò, non solo per i magistrati, adesso questo vale per tante giurisdizioni domestiche, è un principio assurdo. Ripeto, i dipendenti della Camera vengono giudicati dalla Camera, se fanno causa contro la Camera, e giudica la Camera. Per giudicare sugli atti della Camera del Senato, giudica Camera e Senato. Noi abbiamo fatto un ricorso su un provvedimento della Camera, eccala, non ce l'hanno proprio deciso. Eccola, il Codacons. Maurizio, mancava il ricorso del Codacons su questo, mancava effettivamente. Ma lo decidono, se ne fregano proprio, lo tengono buttato in un cassetto. Ecco, ecco. Posso dire, tanto non cambia niente, non ci credo. Ma no, ma infatti, ma il Senato viene tolto. Ma avete visto? Oh, ieri avevamo Corradino Mineo, senatore della Repubblica, alle 8:15, ha detto Corradino Mineo, guardi che mi risulta che potrebbero sostituire anche. No, ma troverei una cosa assurda, incredibile, una cosa che Renzi non saprebbe spiegare. Non è finito il giorno, non è finita la giornata, è Renzi che Corradino Mineo a casa, via, sostituito dalla Commissione Affari Costituzionali. È il renzismo, qua non ci sono. Veloce della luce l'uomo. È più veloce della luce. A proposito di luce, questa potrebbe piacere a Renzi, secondo me. Commissario Cottarelli ha parlato, a meglio, ha scritto sul suo blog, e ha detto spegnete le luci, cari italiani. noi abbiamo detto invece di spegnere le luci per risparmiare i sistemi di grid illuminazione, cioè di illuminazione sì. a basso costo come sì. c'è a Via Slavia a Roma, per fare un esempio sì. che danno più luce con costi bassissimi quindi questa è la svolta, sì, non però... spegnere le luci, ma la sicurezza come andiamo a finire? Ma immagini Roma senza luci o Napoli senza luci, sarebbe una specie ma, di vabbè, ma, ci, ma no, ma ci sono tutti gli uffici che rimangono accesi, si dice ogni anno la camera vabbè, spende, quello, sì, spende quello, no, vabbè, di sera, di notte no, ma si parla di illuminazione pubblica ed anche illuminazione idea, pubblica ed è una delle idee, posso usare un termine? Sì. No, non lo uso, un'idea poco avvedute del governo Monti che la lanciò nel 2000, all'inizio del 2000, alla fine del 2011 una delle primissime idee, ah così risparmiamo, poi si resero conto che era una stronzata, posso dirlo a questo punto sì, puoi perché dirlo. Tanto Monti non c'è più perché canta sì no ma c'è no, sempre senatore a vita senatore a vita no ma l'idea non era sulla di lui particolarmente, non so di chi fosse, ma si è reso conto che poi per appunto per motivi di sicurezza avrebbero probabilmente speso di più perché avrebbero dovuto aumentare le ma però dice basterebbe spegnere le luci non necessarie immagino ma voglio dire ma tra l'altro cioè, oggi Mario Giordano su Libero dice ma lo paghiamo non lo so vabbè lo paghiamo 2000 euro al mese il cottarelli quindi poca roba non è sì. però sembra un po' ormai messo lì nel congelatore non e se ne esce dopo mesi e mesi che uno pensa stia lì a studiare i dossier sulla spending review, la prima cosa risparmiamo 100 milioni l'anno dall'illuminazione, che per carità sì, va bene, insomma risparmiamo 100 milioni l'anno, chi dice di no? Maurizio, cioè, no, per carità, perché sono sempre sono bruscolini rispetto a 800 miliardi di spesa pubblica, però è che lui è al buio, il problema è che lui, Cottarelli è al buio, a questo punto mettere tutti al buio. Ah, quindi lui ha acceso una luce, perché ha cercato di accendere una luce. Comunque Rienzi, questa cosa non piace. No. Non mi convince. No, non convince. Sentiamo se convince questa. Sentite il sindaco di Livorno, il sindaco di Livorno, Nogarini. Pisano, lo sai. Ma poi è del Movimento 5 Stelle, quindi puoi dire ciò che vuoi, si sa. Un altro grandissimo amico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Tortorella. Dopo diamo il suo account Twitter, così gli faremo passare una bella giornata anche a lui con tutti gli amici del Movimento 5 Stelle. E allora, il sindaco di Livorno, Nogarin, propone questo. Questo è il nostro obiettivo di medio-lungo periodo, cioè mi riferisco a cercare di portare a Livorno un trasporto pubblico gratuito. Il trasporto pubblico gratuito. Questo è ottimo, eh? È ottimo. Questo è una cosa che noi abbiamo sempre proposto anche a Roma. A Roma c'è già, soprattutto. Rienzi. No, chi c'è già il trasporto pubblico gratuito? Beh, ma c'è già, non paga c'è. Nessuno il biglietto. Dai, invece noi abbiamo proposto. Cari romani, vi voglio bene, ovviamente. Un grande abbraccio, empatico. Di punto, quando si va a scuola, quando si esce da scuola, oppure la sera quando ci sono le cose per la discoteca, di non far pagare gli autobus. Ma ho capito, ma chi li paga, voglio dire, ma costano? Ma c'è un risparmio enorme di costi sociali, di gas di scarico, di benzina, di distruzione della città, ma, di blocco della ma città. Sì, ma i comuni sono già al dissesto, ma si immagina il costo, cioè, sarebbe bello in un mondo perfetto, però, ma i conti... Si risparmierebbe, ho fatto un lavoro scientifico per dimostrare che far viaggiare gratis in alcune ore significa lasciare le macchine a casa, significa che il risparmio ambientale di una città è 10 volte superiore al costo, quindi si trovano i fondi invece di spendere soldi per risanare l'ambiente delle città che è una schifezza. Si danno i soldi all'ATA a qualche capito Maurizio? Che... Capito? Ho capito, sì, no, ho ascoltato, capito o non l'ho capito? No, vabbè, cioè, perché si risparmia in termini di inquinamento, di meno traffico, i costi? Stavo scherzando, ho capito benissimo, ma non sono d'accordo, è evidente che non è che gli autobus e i tram girano vuoti perché la gente non paga, non vuole pagare l'euro di biglietto, i tram anche a Milano sono pieni, purtroppo sono pieni spesso di gente che non paga il biglietto. No, appunto. Per cui non è che improvvisamente diciamo, ah, che bello, tutto gratis, potete salire tutti, finalmente la gente lascia la macchina a casa e sale sull'autobus o sul tram, i tram sono già pieni. No, sarebbe bello riuscire. Sono pieni di debiti anche, questo No, esatto, sarebbe bellissimo. Tu, io e il dottor Rienzi, l'avvocato Rienzi, perché tutti gli altri, quelli che pagano le tasse. Vabbè. Comunque, questa è l'idea, tra l'altro Nogarin, lo avremo uno di questi giorni, lo stiamo cercando, forse oggi potevamo, però non potevamo più noi, ma vorrei farci due chiacchiere, lo inviteremo uno di questi giorni. Intanto andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Renzi visita le fabbriche di Piaggio e Ariston in Vietnam. Saranno contenti gli operai di Ponte d'Era e Fabriano. Si dice che il PD ha perso delle roccaforti rosse. Non è così. Queste città restano di sinistra, ma hanno voluto voltare le spalle a Renzi. Ti dico che Fassico ha una menata piace per altro. Mi piace di più. Oltretutto è interista, mentre tu sei per Pippo. Tu sai che Pippo Pippo non lo sa, ma quando passa li debuzza la città. Gli italiani piace solo il calcio, poi della politica non gliene importa niente. A dare lì baffone, Milan. Sai che baffone? Uno coi coglioni che butta tutti sti migliaio di politici all'isola d'Elba, la chiude e chiude tutta in chiave. Perché non equipariamo la corruzione ai delitti di mafia? Dun dun dun dun dun. Un Renzi matto, matto da legare, con tutte le tasse che ci fai pagare. Tra i muetares non ce la facciamo più, ma se vuoi metti una tassa anche tu. A Milan, e piantala questa Minetti, non se ne può più, rottamala, fai la sigla nuova, va. Milan, per quel che riguarda l'accelerazione delle riforme, propongo una tuta anti-G per tutti i parlamentari. Sai, non vorrei mai che il sangue dalla testa scendesse ai piedi. Ciao! Eccoci qua alla nostra segreteria telefonica. Che c'hanno contro Nicole Minetti? Rottamala. Ha stufato pure, dai. Vabbè, ha stufato. Non ho capito neanche perché cosa. Io la cambierei. Cosa non hai, cos'è che non hai capito, Maurizio? No, rimanendo sul tema di Livorno, dico, non ho capito che cosa aveva quel povero uomo contro l'isola d'Elba dove voleva sbattere dentro tutti. Sì, poi deve venire baffone, ma che Stalin, ma che siamo matti, cioè uno con Stalin in Italia, oh, ma che, ma siamo impazziti, vabbè, questo è, oh, oggi, dai, parliamoci chiaro, ma voi, anche a voi non frega niente di quello di cui abbiamo parlato finora, perché Renzi, cosa interessa agli italiani da oggi? Una sola cosa, dai. Oggi? Da oggi che cosa interessa agli italiani? Anche dei campionati di calcio. Ma i campionati mondiali, ma dai! No, no. Ma gli interessa pure la corruzione. Mamma mia, perché la stanno incazzati neri. Sì. Invece la Gazzetta dello Sport oggi esce azzurra. È la prima volta nella storia. Guarda qua, sono arrivato, ho preso la mazzetta dei giornali e ho detto: ma che è sta roba azzurra? È la Gazzetta dello Sport. Mazzetta, No, la Gazzetta. La Gazzetta nella mazzetta dei giornali. Sì, mazzetta, si chiama così. Io ogni giorno prendo la mazzetta. Si può dire. Allora, Si può devi fare qualcosa per il Mose. Esatto. Anche, di Mose. Anche Tortorella in redazione. Cioè, ogni giorno prende la mazzetta. Sì, no, a proposito di Mose, posso dire? Sì. No, sabato mattina io sono a Mestre, una conferenza stampa, abbiamo scoperto delle cose clamorose sul Mose e lanciamo la più grande azione collettiva di risarcimento danni, 270.000 cittadini che sono stati danneggiati a Venezia perché questo Mose che nel 2009 avevano giudicato non funzionante, hanno perso miliardi di euro dei soldi che dovevano andare alla città. E cosa aspettava a dircelo questa cosa? Vabbè, aspettavo l'occasione. Vabbè, ma di questi soldi, se li recupererete, ce ne date un po' anche a noi, cioè a me, a Maurizio, a Tortorella, anche noi. Tu, Maurizio, sei stato un po' danneggiato dal Mose, ti senti un po'. Tutti gli italiani sono stati danneggiati. E quindi, Maurizio, anche a te. Ti vedi? Perché no? Anche se il Mose a me piace come idea. Allora a te niente soldi, scusa, se poi dopo il Codacons recupera dei soldi, scusa. Adesso. No, il Codacons non recupera niente, vabbè, comunque anche il Papa ha parlato, come ha detto Iena, i corrotti dovranno rendere conto a Dio. Ok, ma quanto vuole? E questo chiede Iena oggi a pagina 3 della stampa. Però devo fare una protesta formale prima di chiedervi il pronostico. Non ho trovato panorama nella mia mazzetta. Questo è grave. Ah, eccolo qua! No, si era infilato. Perché titolate scandalo anche in curia con il Papa? Perché? Cioè, proprio... ci sono gli scandali dell'Expo, ci sono gli scandali del Mose a Venezia, ma ci sono scandali anche... Ma come? Ma se ha detto che non si va, si va all'inferno? Appunto, lui ha detto queste cose contemporaneamente, incontra degli importanti vescovi, nella fattispecie quello di Mazzara del Vallo, l'ha fatto il 6 giugno, sì. Perché ci sono degli ammanchi notevoli. Qua e là, e non è la prima volta che succede. Ma poi sono, ci sono almeno tre diocesi, sì, nel corso degli ultimi anni hanno avuto dei buchi di bilancio. Ne so una a Trapani, forse. Trapani, esattamente, Terni un'altra, e Vigevano ancora un'altra, e questa nella fattispecie è l'ultima. Quindi è voi fate un focus sulla presunta corruzione anche all'interno del Vaticano, ecco. Tangenti, anche qua tangenti. Che c'è, Rienzi? C'è lo IOR, non c'è bisogno di questi preti, ecco, che hanno fatto imbrogliare, perché tutti, basterebbe scomunicare tutti i clienti privati dello IOR, vabbè, che portavano i soldi lì per impicci, imbrogli e quant'altro, e allora sarebbe veramente un'opera di benedetto Dio, il Tribunale delle Anime farebbe una festa. Comunque, no? Scandalo anche in Curia, questa è la copertina di Panorama che trovate in edicola, ma vi devo lasciare con il vostro pronostico dell'unica cosa che interessa agli italiani da oggi, i campionati mondiali di calcio. Rienzi, chi li vince? Non mi importa, io spero l'Italia, ma insomma sono abbastanza indifferente. Con questo entusiasmo devo dire che sarà facile che gli azzurri vengano trasportati veleggiando. Speriamo, così almeno la crisi si nasconde un altro poco. Ma certo, perché così poi ci sono le vacanze, le scuole sono chiuse, e fino a settembre chi se ne frega. Maurizio, chi vince? Allora, per Rienzi l'Italia. Io non sono un grande competente, lo sai. Vabbè, ma dire una nazionale, basta che c'è. Io penso che, ovviamente diciamo tutti per l'Italia, ci mancherebbe altro, ma mi dicono la Germania, buona possibilità. Dicono la Germania, effettivamente, dicono così. Io ho detto il Brasile, ma perché sono un banalotto e quindi si gioca in Brasile, il Brasile, dico il Brasile, quindi non azzeccherò. Va bene, ma intanto vi ringrazio, Carlo Rienzi, Maurizio Tortorella, alla prossima! Io ogni giorno prendo la mazzetta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:17 minuti, forza italiani, che partono i campionati mondiali di calcio. Dite la verità, vi interessa poco di altro, eh? Siete già lì con la vostra frittatona e la birra, pronti a gustarvi le serate a partire da oggi del mondiale, un po' da debosciati, da veri debosciati, diciamo la verità. E allora, che dire, cari italiani? Vabbè, ma qua parleremo d'altro, ovviamente. Oggi parliamo un po' di cose un po' più alte, per esempio cosa sta succedendo in Iraq. Gran lavoro, ragazzi, verrebbe da dire, dopo la guerra del 2003. Una guerra che è stata criticata allora, e adesso scopriamo che una formazione che si proclama molto vicina ad Al-Qaeda sta conquistando, anche se parzialmente e chissà per quanto tempo, parte delle città dell'Iraq. 500.000 persone sono andate in fuga dal nord dell'Iraq per l'avanzata di Al-Qaeda. Ma parleremo anche di cose italiane, la responsabilità civile dei giudici e la questione dell'immigrazione, con un neo sindaco, il sindaco di Padova Bitonci, che è anche al momento senatore della Lega, capogruppo della Lega al Senato. Questo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. In questo giovedì 12 giugno, per la verità devo dire, lo faccio così, solo in apertura, solo la Gazzetta dello Sport apre, come è ovvio, sui mondiali. Perché la cito in apertura? Perché oggi la Gazzetta dello Sport, per la prima volta nella storia, è tutta azzurra, invece che tradizionalmente rosa. Facciamo gli azzurri, un'edizione della Gazzetta dello Sport storica, certamente, in quanto totalmente azzurra anche come colore. Questo è il titolo che vuole essere benaugurante per la nazionale italiana di Prandelli nel giorno in cui iniziano i mondiali. Vediamo invece gli altri titoli dei quotidiani dedicati a ben altro. Effetto BCE sui bot, tassi sotto lo 0,50%. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera, governo battuto sulla giustizia. La Repubblica invece, Guardia di Finanza, il grande scandalo, la Camera contro i giudici, caos nel PD. Per la Stampa, responsabilità civile dei giudici alla Camera, un sì contro il governo. Il Messaggero, stretta sui giudici, lite dopo il sì. Per il Fatto Quotidiano, PD e Berlusconi scovano i responsabili, è tutta colpa dei magistrati. Mentre per il giornale le mazzette erano per il PD, è l'interrogatorio del sindaco di Venezia Orsoni. Lo scandalo della Guardia di Finanza, o presunto tale, finanza creativa è il titolo del Manifesto, mentre Libero, Renzi prepara il condono, questo è il titolo di prima pagina. Avvenire invece ha una polemica, una denuncia di Caritas e Banco Alimentare, la burocrazia ferma il cibo per 2 milioni, aiuti alimentari ancora bloccati, si soffre al sud. L'Unità infine torna alla questione dei giudici, trappola contro i giudici, questo è il titolo di prima pagina. Voglio però partire dal commissario per la spending review, ricordate che ne abbiamo uno, Carlo Cottarelli. Ieri ha scritto sul suo blog, rilanciando una tematica che già aveva provato a lanciare il governo Monti: cari italiani, spegnete le luci. Questo è un po' il segnale e il messaggio che ha dato Carlo Cottarelli. Lassù qualcuno ci osserva e critica, scrive il Corriere della Sera con Antonella Baccaro a pagina 12. L'articolo è Cottarelli basta con la paura del buio e rilancia i tagli all'illuminazione. Secondo il commissario, infatti, gli analisti economici delle grandi banche internazionali utilizzano le foto dell'Europa prese da satelliti di notte, dove l'Italia appare più illuminata di altri paesi, per illustrare il persistente spreco di denaro pubblico del nostro paese. Insomma, siamo troppo illuminati, troppe luci accese quando non serve. E alla critica di chi dice, per esempio, sono le abitudini latine di passare all'aria aperta alle serate rispetto a nazioni del nord, il commissario Cottarelli sul suo blog scrive: l'Italia appare molto più luminosa anche all'una e mezza di notte, quando si presume che la maggior parte degli italiani sia ormai a letto e si potrebbero risparmiare 200 milioni di euro l'anno solamente con un uso più razionale e intelligente della luce. Devo dire che la proposta Cottarelli rilanciata dal blog raccoglie soprattutto critiche. Guardate Mario Giordano in prima pagina di Libero, in un articolo che è anche un po' una presa in giro, il titolo è l'idea luminosa del governo, spegnere la luce per risparmiare. Che ce ne facciamo di un mister Forbici così, scrive Mario Giordano, più che il genio della lampada, il genio del lampione. Ci eravamo chiesti proprio ieri su queste colonne che fine avesse fatto Carlo Cottarelli, fenomeno della spending review improvvisamente desaparecido dopo che le sue proposte erano finite nel cestino di Renzi. E lui, voilà, ha voluto subito dare una dimostrazione del suo essere in vita, ha rimesso la testa fuori dal freezer dove l'avevano congelato e ha lanciato la proposta per risparmiare quattrini pubblici. Spegniamo l'illuminazione nelle città, praticamente un salto nel buio. Che l'idea non sia propriamente luminosa va da sé, spegnere la luce nella città fa risparmiare appena 100-200 milioni in tutto, secondo quanto affermato dal medesimo genio del lampione. Ora, vi pare? Questo è stato zitto per 2 mesi e poi, di fronte a una spesa pubblica di 800 miliardi di euro, non trova altra proposta che raschiare le briciole della bolletta elettrica, lasciando interi quartieri al buio. Ma ci è o ci fa? In altre parole, è acceso o spento? Così inizia l'attacco di Mario Giordano su Libero, che poi continua, ma anche sul Giorno Pierluigi Martelli dedica una pagina a questo tema. L'Italia in crisi, spenga la luce, dice così il commissario, così si risparmia. Pierluigi Martelli però scrive anche andando un po' nel passato, se l'illuminismo e oscurantismo solo, non solo semanticamente ai poli della civiltà, sarà bene decidere da che parte stare. I fustigatori dei lampioni precedono di gran lunga Cottarelli. C'è chi sostiene che turbano la nidificazione delle cincia allegre e chi lamenta l'impossibilità di individuare l'acqua su Marte coi telescopi, quando forse sarebbe il caso di cercarla nel Sahara per evitare migrazioni epocali. Ci mancava un'authority che spegnesse le lampadine, magari per stendere un velo sul fatto che le 14 authority attualmente veglianti sull'Italia ci costano più di 200 milioni l'anno per elargire a 1800 dipendenti stipendi medi che scavalcano di slancio i 100.000 euro. Certo, la Germania vista dall'alto è meno chiassosa, ma i tedeschi alle 18, anche prima, staccano la luce dall'ufficio e se ne vanno nelle loro moderne città servite da efficienti trasporti. E vedete, non è che è stata accolta con grande entusiasmo questa proposta di Cottarelli, almeno in alcune critiche di giornali che trovo su Libero e il Quotidiano Nazionale. E come detto, io parlerò anche un po' di Iraq. Avremo ospite lo scrittore iracheno da anni trasferitosi in Italia, Younis Tafik, così come avremo Fausto Biloslavo, esperto di guerre, reporter che gira per il mondo per raccontare le situazioni di guerra. Ebbene, non è una situazione tutt'altro che tranquilla in Iraq, dove questa sigla ISIL, vale a dire una sigla che significa lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, come scrive Alberto Negri oggi nella sua analisi del Sole 24 Ore, sta avanzando verso Baghdad. Sono milizie islamiche estremiste affiliate ad Al-Qaeda, hanno già controllato, scrive Alberto Negri, anche la più grande raffineria del paese. Ci sono 500.000 persone date in fuga da Mosul nel nord dell'Iraq, e oggi Sergio Romano dedica il suo editoriale di prima pagina del Corriere della Sera proprio a questo tema. La rinascita del califfato, questo è il titolo. Sergio Romano scrive: quando decise l'invasione dell'Iraq agli inizi del 2003, George W. Bush, presidente degli Stati Uniti, sostenne di avere due buone ragioni. Uno, il regime di Saddam Hussein nascondeva armi di distruzione di massa e i servizi iracheni, due, avevano rapporti organici con Al-Qaeda, l'organizzazione di Osama Bin Laden. Non era vero. Le armi non furono mai trovate e i rapporti con Al-Qaeda non vennero provati. Oggi, 11 anni dopo, una costola di Al-Qaeda, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, ha conquistato Fallujah, ha espugnato Mosul, ha costretto il governo di Baghdad a proclamare lo stato di emergenza a cavallo della frontiera siriana, dove potrebbe risorgere il califfato sognato da Osama Bin Laden. Aggiunge Romano, le responsabilità non sono interamente americane. Non saremmo a questo punto se la rivolta contro il regime siriano di Bashar al-Assad non avesse chiamato in Siria una legione islamista molto più numerosa e agguerrita delle cellule di Al-Qaeda che operavano nella regione 10 anni fa, ma un nucleo importante si è addestrato probabilmente nelle montagne dell'Afghanistan, dove la guerra americana combattuta per 13 anni non è riuscita a impedire il ritorno dei talebani, mentre altri provengono dal Pakistan, ambiguo alleato degli Stati Uniti, o addirittura dalla Libia, a un tiro di schioppo dalle nostre coste, dove gli americani, sollecitati da Francia e Gran Bretagna, hanno abbattuto il regime di Gheddafi. Non è certamente questo che Barack Obama voleva quando pronunciò il suo generoso discorso nell'aula magna dell'Università del Cairo all'inizio del primo mandato. Sapeva che la guerra irachena era stata un errore e nessuno più di lui sperava di archiviare la sciagurata politica di Bush per consentire al suo paese di imboccare una strada diversa, ma cercò di mascherare la sconfitta con qualche successo militare. Rafforzò i due contingenti americani, sperò di andarsene da Iraq a Afghanistan dopo una decorosa, anche se temporanea, vittoria. Questo e di questo parleremo. Insomma, si può dire che è stato un disastro, anche essa a distanza di 11 anni, quella decisione di fare la guerra in Iraq, visto che si fece la guerra dicendo ci sono le armi di distruzione di massa e ci sono i legami con Al-Qaeda. Ora, le armi di distruzione di massa non sono mai state trovate, Al-Qaeda in Iraq, eccolo lì, l'abbiamo trovata 13 anni dopo. Milan, il Dudu dell'informazione. Oh, finalmente è arrivato anche il Dudu, ci mancava assolutamente. Allora, la politica ieri ha fatto segnare certamente una sorpresa, il gran pasticcio, così lo definisce il Corriere, per la maggioranza alla Camera, dove un emendamento della Lega sulla legge comunitaria riguardante la responsabilità civile dei magistrati, cioè una legge che prevede la possibilità per i magistrati di essere chiamati a pagare per i danni arrecati da errori commessi, è passato, nonostante il voto contrario, il parere contrario del governo, è passato col voto segreto. E dunque il governo è andato sotto alla Camera. Ora Renzi dice dalla Cina è una tempesta in bicchier d'acqua e le reazioni sono esagerate e al Senato modificheremo questo testo. Sta di fatto che tutti i giornali per un giorno rinfocolano la polemica su questo tema. Il gran pasticcio, racconta il Corriere della Sera, pagina 8, con Dino Martirano, è andato in scena alla Camera e riaccende polemiche e sospetti tra politica e giustizia. C'è anche sotto accusa soprattutto il vicepresidente della Camera, renziano Doc, Roberto Giachetti, che ha una storia e un passato radicale e che pubblicamente ha detto, anche prima del voto segreto, io voterò a favore di questo emendamento proposto dalla Lega. Ebbene, Giachetti fa una serie di interviste, viene intervistato per esempio da Daria Gorodischi sul Corriere della Sera e dice: io sono renziano Doc, a volte però la pensiamo diversamente su amnistia, per esempio. Renzi è contrario, io a favore, sono renziano Doc ma con una mia cultura e una mia autonomia. Ma esiste già una sede dove i magistrati vengono giudicati? Risponde Giachetti: chiediamo al CSM quanti sono i magistrati che in ragione di tutte le cause avviate sono stati intaccati. È evidente che qualcosa non funziona, non sono un traditore, comunque, dice Giachetti. Tra l'altro il quotidiano La Stampa intervista Gaia Tortora, una delle figlie di Enzo Tortora, perché questa vicenda viene sempre associata a Enzo Tortora, spesso si sente dire nei casi di errore giudiziario di Enzo Tortora non ci fu nessuno a pagare, anzi Gaia Tortora dice, intervistata da Francesca Paci a pagina 9 della Stampa, per la mia storia chi sbaglia paga in ogni lavoro, giudici compresi. Nel caso della mia famiglia, chi ha sbagliato è stato promosso. Non significa che sarà sempre così, però si deve intervenire. Se poi vogliamo dire che in questo momento ci sono inchieste delicate in corso, lo capisco, ma mi lascia perplessa la politica nel PD, o meglio la polemica nel PD. E dice ancora Gaia Tortora, finora Renzi ha mostrato idee chiare e coraggio, vedremo se andrà fino in fondo facendo una riforma della giustizia completa che inevitabilmente toccherà anche quella categoria. Renzi dice chi sbaglia paga, politici, imprenditori, tutti, e tutti vuol dire tutti. Certo, però i magistrati non hanno reagito bene, come racconta Liana Milella in un retroscena su Repubblica in prima pagina. Le toghe sono in rivolta e dicono così: la P2 non avrebbe saputo fare di meglio. La sensazione in questo resoconto su Repubblica è che i magistrati dicono la politica si è voluta vendicare anche per le recenti inchieste, l'ultima quella sul Mose e su Venezia. Noi magistrati siamo responsabili in quanto esistiamo, raccoglie alcuni pareri anonimi la giornalista di Repubblica. Altro che Cantone commissario anticorruzione, la politica ha risposto così alle indagini di Milano e Venezia che colpiscono tutti. Insomma, c'è grandissima preoccupazione, fortissimo sconcerto nelle mailing list e anche al telefono. È un allarme che monta per tutta la giornata da parte delle toghe, che reagiscono molto male al voto di Montecitorio sull'emendamento del leghista Pini. Di primo acchito paiono non crederci, poi legano questo voto ad altri fatti negativi che li riguardano, l'insistenza su una nuova giustizia disciplinare, l'ipotesi di abbassare da un giorno all'altro l'età pensionabile, il paventato taglio degli stipendi, la stretta sulla custodia cautelare. Insomma, come dice un PM in un messaggio via mail, che bisogno c'è di riformare la giustizia proprio mentre i magistrati arrestano politici, imprenditori, finanzieri, ma anche colleghi? La sensazione tra i magistrati scatta l'allarme, questo è il titolo, vogliono vendicarsi come la P2. tra politica e magistratura, come dire, le acque sono un po' agitate. Renzi, appunto, dalla Cina dice: è una tempesta in un bicchiere d'acqua, si risolverà tutto. Certo, dal punto di vista giudiziario non passa giorno che non ci sia un nuovo presunto scandalo. Quello che ieri è emerso e finisce oggi sui giornali riguarda i vertici della Guardia di Finanza. È indagato il numero due della Guardia di Finanza, il generale Vito Bardi, come racconta Simone Di Meo a pagina 11 del Sole 24 Ore. L'accusa è corruzione, controlli fiscali addomesticati, mazzette, bel mondo. C'è soprattutto questo nell'inchiesta che ha portato all'arresto per concorso in concussione del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, il colonnello Fabio Massimo Mendella, e all'iscrizione nel registro degli indagati per corruzione del numero 2 del corpo, il generale Vito Bardi. È davvero un qualcosa che terremota la Guardia di Finanza, tanto che racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, c'è l'ira del comandante della Guardia di Finanza, il comandante Capolupo, Saverio Capolupo, il quale addirittura, racconta Fiorenza Sarzanini, ipotizzerebbe un'idea di un discorso pubblico da pronunciare già domani in televisione o nel corso di una cerimonia ufficiale contro i venduti, in modo da dare fiducia alla parte sana, che è quella vera e soprattutto più consistente per tenere alto il morale della base della Guardia di Finanza, e ribadire che i primi a voler fare pulizia siamo proprio noi. Questi sono virgolettati che vengono attribuiti al comandante della Guardia di Finanza, Capolupo. Certo, a leggere i dettagli dell'inchiesta è qualcosa di abbastanza clamoroso. L'ordinanza, pagina 3 del Corriere della Sera, la paga del colonnello, 30.000 euro al mese e gite con i calciatori. I soldi, il contanti, gli sarebbero stati consegnati nelle scatole dei telefonini cellulari, ma evidentemente quei 30.000 euro non bastavano. E allora il colonnello della Guardia di Finanza, Fabio Massimo Mendella, si faceva pagare anche vacanze in Sardegna o gite in barca a Capri con i calciatori del Napoli. È il 14 novembre scorso quando un imprenditore decide di collaborare e dichiara: nel 2005 venni avvicinato da un mio collega Pietro Luigi De Riu e mi disse che sarebbe stato bene per la mia attività incontrasse un suo amico, il maggiore Mendella, col quale fu organizzata una cena presso uno dei locali che all'epoca gestivamo, la Scalinatella di Napoli. De Riu ci propose di trovare un accordo economico con Mendella proporzionale al volume d'affari della società. Mi fu detto che con 15.000 euro al mese avremmo potuto stare tranquilli. Cominciai a pagare, ma poi i versamenti sono cresciuti, 20.000 e poi fino a 30.000 euro al mese. Non abbiamo mai avuto alcun controllo mirato dalla Guardia di Finanza. Complessivamente avrò versato oltre 1 milione di euro. Quindi il contesto è questo: versare presunte mazzette, presunte tangenti, per evitare controlli della Guardia di Finanza. Una vicenda che ha coinvolto anche il numero 2 della Guardia di Finanza, il generale Vito Bardi, che racconta Repubblica qualche tempo fa in TV spiegava come lavora il finanziere modello. Pagina 7 di Repubblica: il finanziere modello deve essere un cittadino non avulso dal contesto che lo circonda. Prepariamo i nostri giovani affinché siano ispirati ai sani principi e siano pronti ad affrontare le difficoltà. Tra l'altro, in tutta questa vicenda il Sole 24 Ore racconta anche un particolare che magari farà arrabbiare ancora di più. Il generale Vito Bardi andrà in congedo il 5 luglio, per carità innocente fino a prova contraria, ma andrà in pensione con una speciale indennità pensionabile stabilita dalla Corte dei Conti, riunita proprio sul suo caso personale. Prenderà un emolumento di circa 5-6.000 euro netti in più al mese rispetto alla pensione. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Come va? Va tutto bene, perché vedo che insomma abbiamo a cuore anche il la destino, vita dopo il ritiro lavorativo. Certo. La pensione degli italiani. No, poi oggi sono un po' emozionato, scusami Alessandro, perché sta nascendo una nuova tassa. Sì. Sono l'IRI, lo sai? L'IRI. Ti sei accorto? Oddio, l'IRI, IRI o l'IRI? No, IRI. È bellissimo. mi ricorda qualcosa. Devono togliere l'IPT, sì, l'imposta provinciale di trascrizione. Allora, nella riforma della PA, oggi è tutta una sigla, sì, nella riforma della PA arriva l'IRI. Domani, è proprio imminente, capisci che è una cosa che un po' emoziona. Imposta regionale di immatricolazione, perché le province, come sai, non ci sono più, sono state abolite, siamo alla settimana decisiva, numero non mi ricordo più. Ecco, quindi 58, grazie. E lì arriva l'IRI, ecco, è sempre un bel momento, però non ci metterebbero più il Super Bowl, insomma domani, vediamo, domani è il giorno è, sono già agitato da oggi. Sì, non ci metterebbero più il Super Bowl, ma il rincaro del bollo auto nuovo fino al 12%. Ma per coprire il passaggio, sai, ci sono delle spese. Come sempre quando c'è una nuova, bisogna affrontare qualche spesa, chiaro, no? Scusa, se ti nasce qualcosa in famiglia e qualcosa metti da parte. Parte, sì, no? Sì, poi sì, magari anche i nonni aiutano, insomma, cosa, quello che si fa in tutte le famiglie, dai. Hai studiato la TASI, guarda, sì, che incombe. L'hai studiato veramente? No, non l'hai studiato, lo sapevo. Ti sei anche dimenticato di portare l'insert che abbiamo pubblicato ieri, io lo so che non ce l'hai. Allora, anziché fartelo dare al tuo compagno di banco, vai sul sito del Sole 24 Ore, che guarda che lo abbiamo messo a disposizione come ebook. Nella sezione Store 24. Io poi però veramente a questo punto non so più come difenderti, Alessandro, infatti dopo questa basta, cioè, l'ultima. Ecco, e sappiti regolare, perché guarda che lunedì, lo scriviamo su Sole 24 Ore, ricomincia anche l'attività esecutiva di Equitalia, quindi non voglio dire altro, infatti. Una parola è poco e due sono troppe, diceva un grande pensatore dell'era moderna, e allora io a questo punto una sola parola devo dire, pare, no? Esatto. E la dico. È quella. Traffico. Alessandro Milan e i Berlusconi delle informazioni, Radio. Mi sembra giusto, dopo Dudu anche Berlusconi, è chiaro. Allora, continuano la vicenda delle inchieste di Venezia con le accuse di Orsoni, come titola Repubblica. Così il PD Veneto mi spinse ad accettare quei soldi. Sapete che da ieri si parlava di questo Mister X o Compagno X. Il Compagno X, come scrivono i giornali, non è una persona, non è un uomo o una donna con nome e cognome, ma è il Partito Democratico del Veneto. In particolare ha fatto tre nomi Orsoni: Michele Mognato, Gianpietro Marchese e Davide Zoggia, gli uomini che nel 2012 avevano in mano il PD Veneto, due diventati deputati, uno finito agli arresti. E racconta Orsoni, in pratica, nel suo interrogatorio, racconta dei giornali, vennero da me in tre preoccupati per la candidatura di Brunetta, l'allora segretario provinciale del partito Mognato, Zoggia, eletto anche lui ora deputato, e Marchese, ex vicepresidente regionale del PD, sono loro ad aver insistito perché si avvicinasse al consorzio e ottenesse il finanziamento. Tra l'altro, su questa vicenda, visto che Massimo Cacciari è entrato anche lui nel trituratore dei nomi, dice in un'intervista al Corriere della Sera: è vero, ho chiesto aiuto per un'azienda, e allora? Così intervistato da Marco Imarisio a Pagina 5, così fan tutti, Cacciari, ma manco per sogno, non ci provare, non te lo permetto. Beh, ma anche lei, oh, ma che bel segreto di Pulcinella, risponde Cacciari. Mica l'ho fatto una volta sola di chiedere un intervento a Giovanni Mazzacurati e al consorzio Venezia Nuova. Ma che discorso è se ho bisogno di chiedere un aiuto per un'impresa che sta fallendo da chi vuole che vada? Dal mendicante di Rialto? Sono cose ufficiali le mie. Nero su bianco, tutto, per quel che mi ricordo, ho scritto a Mazzacurati, ad altre associazioni, ho chiesto aiuti a Leni, con cui baruffavo un giorno sì e l'altro, pure per via di Porto Marghera. Insomma, sento odore non di incoerenza mia, ma di ridicolaggine, di piccole vendette personali. Come si fa a dare retta a simili boiate? È consolante trovarsi in buona compagnia, chiede Imarisio, ma smettila di fare il mona, risponde Cacciari, non permetto paragoni, il mio caso è molto diverso da quello del patriarca Scola e da Enrico Letta. Io non ho mai chiesto favori personali, ma solo interventi per aziende in crisi o per faccende di interesse locale, come la squadra di calcio. Facevo il mio mestiere di sindaco. Insomma, è preoccupato, ma sta scherzando. Non sono neppure infastidito. La gente mi conosce e sa bene come sono andate le cose allora e oggi. Così si difende e si spiega, si giustifica Massimo Cacciari. Invece, che dire, c'è una vicenda che riguarda Berlusconi che è raccontata da Libero. Può far sorridere, può far ridere. Oppure può essere presa come una cosa molto seria. Fosca Binker ne scrive, alias Franco Bechis: Berlusconi sconfigge i pastori sardi. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 13. Sapete che c'è una vecchia disputa sui terreni per la costruzione di un villaggio vacanze sulla costa turchese, coi pastori sardi che invadevano con le loro greggi i terreni, rivolgendosi poi a un tribunale per rivendicare la proprietà per intervenuta usucapione. Già il cavaliere dovette pagare nel 2010 891.000 euro per riavere il suo. Aveva dovuto chiudere la transazione con questa cifra, ma siccome altri pastori sardi continuavano a seguire l'esempio dei primi e a occupare le terre con le greggi, allora cosa ha fatto Berlusconi? Di fronte alle pecore l'idea alla fine è venuta: costruire dei recinti, costruire dei muri invalicabili pur mantenendo i passaggi per i turisti per raggiungere la costa e le spiagge come prevede la legge regionale. E dunque, stufo delle invasioni delle orde di pecore dei loro pastori, Berlusconi ha fatto cintare gran parte delle sue proprietà con steccati insuperabili e vere e proprie cancellate. Eccola lì, Berlusconi sconfigge così i pastori sardi. Questo il quotidiano Libero. Vabbè, c'è da dire che c'è uno sviluppo sulla vicenda di Alessandra Bernaroli, nata come Alessandro ma ha cambiato sesso negli anni. La Corte Costituzionale le ha dato ragione: pur avendo cambiato sesso può rimanere sposata con sua moglie, e dunque ora c'è di fatto un matrimonio tra due donne. Cambio di sesso dopo le nozze, la legge tuteli la coppia. Così il titolo del Corriere, ma anche Repubblica: lui è diventato una lei, il matrimonio è valido. E anche La Stampa, i giudici: lui cambia sesso, il matrimonio resta valido. Questa dunque la decisione della Corte Costituzionale. Per La Stampa, di fatto, la Consulta apre alle coppie gay, perché si è creata una situazione, si è prodotta per l'effetto di modifiche appunto del sesso di una delle due persone sposate, un matrimonio gay in piena regola sancito dallo Stato, dalla Corte Costituzionale. Ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È un'intera pagina della Stampa oggi, a firma Francesco Semprini, che firma da New York. Non chiedetemi perché, io non lo so perché, ma prendetela per fede. Come titolo, il 2014 sarà l'anno della riscoperta dell'autorità paterna. Il rilancio del papà, un argomento virale su internet, nei libri, non lo so perché, ma prendetela così. Il 2014 rilancia l'autorità paterna. Ma dai, su. 24 mattino. Quando sono le 8 e 19 minuti siamo ancora qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, avete sentito Renzi dalla Cina dire: è una tempesta in un bicchiere d'acqua, al Senato rimedieremo. Si riferiva di ieri al voto alla Camera in cui la maggioranza, il governo è andato sotto, vale a dire la responsabilità civile dei magistrati. L'emendamento è di un leghista, l'onorevole Pini. Succederà questo al Senato? Lo voglio chiedere a una persona che per la verità credo rimarrà al Senato ancora non moltissimo, perché è il capogruppo della Lega al Senato, ma è stato eletto anche da domenica sindaco a Padova. Intanto complimenti e buongiorno a Massimo Bitonci, sindaco di Padova. Buongiorno. Grazie a tutti. Insomma, partiamo da qui perché lei ancora formalmente è al Senato. È una tempesta in un bicchiere d'acqua e al Senato non ce la farete? Io sono ancora capogruppo per qualche giorno, attendo indicazioni del segretario, ma ovviamente come ho promesso ai cittadini non terrò assolutamente il doppio incarico, mi dimetterò prima della giunta per le elezioni e lo farò immediatamente. Sì. Penso che questa sia una scelta certo. Che ho insomma, in campagna elettorale ho detto più volte, ma rispettarla in pieno. E la manterrà. Ma cosa succederà su questa responsabilità civile dei magistrati al Senato? Guardi, questa è un vecchio cavallo di battaglia della Lega Nord, ma non solo, anche di altri partiti e movimenti. L'emendamento è passato alla Camera, però non è detto che le maggioranze siano molto diverse anche al Senato, perché questo governo è vero che governa con una maggioranza non troppo ampia, quindi non lo so, non sarei così sicuro come dice Renzi che possa. Anzi, insomma, al Senato i numeri sono anche più risicati. Al Senato sono molto più risicati che alla Camera, quindi insomma attendiamo l'esito del Senato, anche se devo dire che quella della responsabilità civile dei magistrati è stato oggetto anche di referendum e di richieste referendarie. Quindi insomma è uno di quei temi già noti che le persone conoscano, battaglie non solo del nostro movimento che sinceramente anch'io condivido. Sa e non che, è sa voler che però, fare la guerra ai magistrati appunto, per perché però, le volevo chiedere proprio questo. Molti magistrati racconta Repubblica dicono manco la P2 si sarebbe vendicata così in un momento in cui ci sono inchieste, ci sono, no? Guardi direttore, cioè io non vorrei che ci fossero esagerazioni da una parte e dall'altra. Questo è un emendamento che introduce una responsabilità civile. Io penso che chi ci ascolta si rende conto che quando insomma un magistrato sbaglia e sbaglia in maniera chiara, netta, deve anche rispondere. Non è assolutamente un emendamento che va a colpire tout court la magistratura per metterla sotto il giogo della politica, non è assolutamente vero. Insomma, se ne parla da tantissimo tempo, mi pare che su questo si siano espressi anche numerosi magistrati e quindi favorevoli al fatto che ci sia insomma una sorta di responsabilità, perché chi sbaglia quando fa il medico? Allora, un medico che sbaglia durante un'operazione, un professionista che sbaglia nella redazione di un atto, un politico che sbaglia, è giusto che anche un magistrato, quando ci sono degli errori che sono magari errori gravi, che sono incontrovertibili. Sì, dice, in realtà il CSM c'è, però si dice non sono molti magistrati che hanno pagato. Io però vorrei farle anche qualche domanda su Padova, insomma, poi tanto la vicenda al Senato la vedremo. Lei ha detto che andrà a vivere a Padova quando Padova sarà più sicura per lei e per i suoi figli. Ma perché Padova non è sicura? In che cosa non è sicura? Guardi, Padova purtroppo è una di quelle città del nord dove il tema della sicurezza è stato il tema centrale della campagna elettorale. Mi sono fatto un'opinione di questo non solamente negli ultimi mesi durante la campagna elettorale, ma la richiesta d'aiuto da parte dei cittadini c'è ormai da qualche anno. Nelle altre città e nelle altre campagne elettorali i temi sono stati principalmente quelli della crisi economica, della mancanza del lavoro, i temi di carattere sociale. Invece a Padova purtroppo una delle esigenze e la più importante esigenza che viene richiesta dai cittadini è proprio quella della sicurezza. Causa di che cosa? Io lo continuo a ripetere e adesso noi abbiamo già cominciato a invertire questa tendenza fin da subito, quindi già 2 giorni le cose stanno già cambiando. Ieri c'è stata un'importante anche retata in un campo nomadi, gli accattoni in città già cominciano a diminuire, abbiamo già dato direttive alla Polizia Municipale perché ci siano controlli molto seri nelle abitazioni. Insomma, è un tipo di politica della sicurezza completamente diversa da quella che ha fatto l'amministrazione. Purtroppo il buonismo dell'amministrazione che ha perso a Padova, ricordo che su 20 anni il centro-sinistra, la sinistra, direi più che centro-sinistra, direi proprio la sinistra, ha governato Padova per 15 anni su 20. È stata troppo buonista come politica. Una politica buonista a tutto campo, sia sull'edilizia residenziale, per quanto riguarda le assegnazioni delle case popolari, sia sul fatto che ci sono mendicanti a cartoni e la Zaroni in giro e la polizia municipale gira la testa dall'altra parte. Ma che fastidio dà? Che fastidio dà l'accattone o comunque qualcosa? Ma guardi, la sicurezza, il concetto di sicurezza parte dal basso, quindi parte dal rispetto delle regole, dai mendicanti molesti, dall'accattonaggio, poi si passa al controllo delle abitazioni. Poi c'è tutto il tema dello spaccio e della prostituzione, perché io credo in un tipo di sicurezza partecipata, un tipo di sicurezza fatta in collaborazione tra polizia, carabinieri, ma anche il sindaco. Cioè, chi dice che il sindaco, come ha sempre ripetuto come un refrain questa l'ultima amministrazione del PD, che il sindaco può far poco, perché cosa vuoi che faccia il sindaco? Ci sono le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri. Invece lei dice può fare molto. Però, ma può fare moltissimo. Però mi scusi, perché l'ha retata con il campo nomadi? Cioè era per dare un segnale, come dire, è arrivata la Lega e cambia un po' la musica? Ma noi abbiamo già dato delle direttive subito dall'inizio, e allora su questo si è innestato tutta una serie, e logicamente questa retata era stata predisposta sicuramente prima. Però, io ho visto già nel giro di pochi giorni cambiare il clima in città, e penso che cambierà molto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi anche. Cioè, come è successo poi in altre città anche del nord. Facciamo l'esempio di Verona. Verona era la centrale dello spaccio degli stupefacenti del nord. Se chi si ricorda com'era invaso di mendicanti e di spacciatori il centro, la periferia di Verona, e tutti dicono che con il lavoro fatto dal sindaco Tosi, o come, faccio un altro esempio, Veneto, chi si ricorda bene quanto è stato fatto da Gentilini e da Gobbo negli anni del governo di Treviso. Lei cita i leghisti, cioè dice la politica leghista, un po' del rigore, è questo che ci vorrebbe per sistemare un po' le cose, ma soprattutto in città, perché poi vede, l'amministrazione è una cosa diversa dalla politica, e nell'amministrazione penso che sia abbastanza chiaro che essendo nostro un partito, un movimento dove ci sono molti amministratori locali e dove anche i parlamentari come il sottoscritto, ma tutti i componenti del gruppo Camera e del gruppo Senato sono tutti ex amministratori. Cioè, noi partiamo da una politica che viene fatta essenzialmente a livello territoriale ed è un modello di buona amministrazione. Dopo ovviamente ci sono stati anche casi negativi, però insomma la politica che fa la Lega Nord nel territorio, soprattutto in temi così importanti come quello della sicurezza, lei la porterà avanti degli ottimi frutti, la porterò, è chiaro, come ho fatto a Cittadella anche a Paolo. No, ma è chiaro. Per concludere, sindaco Bitonci, è vero che lei vuole chiudere i centri sociali a Padova? Ma ci sono dei centri sociali che hanno l'attività all'interno di fabbricati dove dovrebbe sorgere progetti di edilizia residenziale pubblica, e quindi io ho detto che porterò avanti questi progetti di edilizia residenziale pubblica, perché anche in questo caso vuol dire chiuderli. L'amministrazione ha sempre fatto finta di niente e ha lasciato stare e ha chiuso un occhio nei confronti non tanto dei ragazzi, perché non è un problema, ai ragazzi bisogna trovare comunque dei posti dove incontrarsi, dove stare assieme, dove anche divertirsi. Però questi invece sono posti dove regna invece più l'illegalità che la legalità. Sono posti dove comunque le occupazioni sono di carattere abusivo e non regolare. Beh, che vuol dire, se c'è ipotesi di residenza pubblica, chiudere i centri sociali e convertirli in quello? portare avanti quelli che sono i progetti dell'amministrazione, di portare queste zone, non zone franche, ma zone dove regna la tranquillità, la sicurezza e anche la legalità. Va bene, staremo a vedere, intanto in bocca al lupo ovviamente, visto che è già al lavoro, ma da soli tre quattro giorni. Grazie Massimo Bitonci, sindaco, neosindaco di Padova della Lega. Noi dopo la pubblicità ci concentreremo invece un po' con uno sguardo, un orizzonte ampio a quello che sta succedendo in Iraq e anche, se volete, al confine tra Siria e Iraq. Ricordate la guerra in Iraq 2003? Andammo lì per trovare le armi di distruzione di massa e perché Saddam Hussein aveva i legami con Al-Qaeda. Questo disse l'amministrazione americana, con una campagna ossessiva, con una campagna continua, mirata e molto molto insistente su questi punti. È stato, ve lo chiedo, è una domanda, è stato un errore? Qualcuno lo sospettava già allora, qualcuno dice no, anche adesso assolutamente abbiamo portato comunque un Iraq più aperto certamente alla democrazia rispetto a quanto fosse prima con Saddam Hussein, anche se ovviamente la strada sarà lunga. Sta di fatto che in questi giorni in Iraq si parla di 500.000 persone in fuga, soprattutto dal nord, dalle città di Mosul, dalle confine con la Siria, perché c'è un'avanzata di un gruppo jihadista islamico molto vicino, considerato molto vicino ad Al-Qaeda. 24 mattino. Siamo qui alle 8.37 minuti, allora vi do il numero per i vostri interventi, se volete ora parliamo di Iraq, 800240024. Io ieri, commentando come si fa su Twitter, dunque nella brevità dei 140 caratteri, ho detto bel lavoro ragazzi, great job in Iraq, grazie mille, e oggi Sergio Romano in prima pagina sul Corriere della Sera fa un editoriale nel quale scrive così: quando nel 2003 Bush, presidente degli Stati Uniti, sostenne di avere due buone ragioni per attaccare l'Iraq, eccole qui le ragioni: il regime di Saddam Hussein nascondeva armi di distruzione di massa e i servizi iracheni avevano rapporti organici con Al-Qaeda, l'organizzazione di Osama Bin Laden. Le armi non furono mai trovate, i rapporti con Al-Qaeda non vennero provati. Oggi, 11 anni dopo, siamo a leggere dei resoconti a un'avanzata jihadista di uomini affiliati ad Al-Qaeda dalla Siria nel nord dell'Iraq. Ne vogliamo parlare tanto con Fausto Biloslavo del giornale, reporter di guerra, che saluto. Fausto, buongiorno. Eccoci qua. Voglio salutare anche Younis Tafik, che è uno scrittore, giornalista nato a Mosul in Iraq. Buongiorno Tafik. Buongiorno a lei. Si trova però dal 1979 in Italia, tra l'altro Mosul è in quel nord dell'Iraq, da dove so che lei è in contatto, e qual è la situazione? Ma la situazione è stranamente molto tranquilla. Io stanotte ho parlato con i miei che sono ritornati a casa dopo averla lasciata, perché questo attacco è iniziato venerdì scorso. Loro di notte erano usciti scappando con mezzo milione di degli abitanti di Mosul verso il confine con il Kurdistan e la Siria, ma stanotte mi hanno detto che sono tornati a casa perché la normalità è ritornata in città, anzi mi hanno specificato che si stava meglio di prima. Si stava meglio di prima, cosa vuol dire con questa frase? Vuol dire che sono stati ripristinati la corrente elettrica, l'acqua, eccetera, per le strade non ci sono più le transenne, perché io sono stato 2 anni fa in Iraq e non le nascondo che la situazione era tale da veramente essere definita con assurdo, con l'assoluto assurdo, per cui il controllo dell'esercito di Baliki, che poi è un esercito di carta alla fine, reprimeva soltanto la cittadinanza ma non li proteggeva, adesso loro dicono stanno meglio. Questa è una cosa che io ho capito stranissimo, che non riesco, infatti io ho insistito con loro più volte a chiedere, ma non ci sono repressioni, non ci sono vendette, non ci sono esecuzioni di massa contro, mi hanno detto assolutamente no, non hanno fatto male a nessuno, anzi hanno chiamato con gli altoparlanti eccetera, di ritornare al lavoro, di ripristinare il tutto, di pulire le strade, non lo so. Beh, insomma, è una lettura molto interessante, Fausto Biloslavo. Cerchiamo di capire intanto, perché dai giornali italiani si racconta Al-Qaeda sta avanzando addirittura verso Baghdad e ha conquistato quella parte del nord dell'Iraq e si sta spostando verso Baghdad. Chi sono intanto questa nuova sigla, ISIL, e davvero c'è da preoccuparsi, oppure ecco, anche le voci che arrivano da Mosul a Yunis Tafik dicono no? Beh, allora assolutamente non possiamo scambiarli per buoni samaritani che portano libertà e democrazia, insomma questi portano Corano e moschetto e soprattutto è il loro obiettivo strategico, il califfato transnazionale che si è mangiato una bella fetta di Iraq, si è da tempo mangiato anche una bella fetta di Siria, e appunto il nome della loro organizzazione è lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, che si espande fino al Mediterraneo, insomma, per intenderci. Quindi questo è solo l'inizio ed è un inizio che non è cominciato venerdì con l'attacco a Mosul, ma è iniziato in Siria da 3 anni nella lotta contro il regime di Assad, ma in Iraq questa escalation è iniziata alla fine dello scorso anno, all'inizio di questo, con le conquiste di una città dietro l'altra, tra l'altro città che ricordiamo tutti per le sanguinose battaglie e a questo punto anche abbastanza inutili compiute dagli americani, come Fallujah, come Ramadi, e adesso puntano, tra l'altro appunto è un inizio perché puntano, non puntano ancora su Baghdad, hanno bloccato l'autostrada, Baghdad è ancora lontana, non la conquisteranno mai, ma puntano per esempio su altre città strategiche come Kirkuk, ricca di petrolio, o città simboliche come Tikrit. Certo, ma se avete infatti avendo in mente un po' la mappa da Iraq e Siria, la Siria è al nord dell'Iraq e quindi l'idea è conquistare la parte sud della Siria e il nord dell'Iraq, però quando dici conquistare le città sembra quasi un gioco di risico, in realtà non ci sarebbero combattimenti. Cosa vuol dire conquistare le città? Vuol dire che il potere centrale iracheno era molto labile, no? Era ed è molto labile, nel senso che si è sciolto come neve al sole, si è visto in particolare a Mosul, ma anche nelle battaglie nelle altre città precedenti, a Mosul proprio si è sciolto, cioè è scomparso, hanno avuto gioco facile, sono molto abili questi nuovi qaedisti, ricordiamoci che proprio è una nuova formazione, anche errato definirli Al-Qaeda, nel senso che per esempio hanno rotto con il medico egiziano che è l'erede di Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, che addirittura ha scomunicato il capo di questi nuovi qaedisti che si chiama Abu Bakr al-Baghdadi. E dicevo che appunto come arrivano l'esercito iracheno si scioglie, scappa assieme a 500.000 di persone e riescono a conquistare tutti i punti strategici delle città. Questo è un grosso problema, infatti lo stesso premier iracheno Nuri al-Maliki ha chiesto l'intervento aereo americano, gli americani probabilmente interverranno con i droni, ma hanno detto sì, prima però di intervenire con i droni forse bisogna sistemare un attimo l'esercito. No, chiaro, questo sì. Yunis Tafik, è sbagliato, è giusto o è inutile come discorso porla guardando al passato, guardando al 2003, guardando a dire ma insomma che abbiamo combinato in Iraq? È una vicenda che ormai dovremmo affidare alla storia oppure è un qualcosa che ci si può chiedere anche oggi? No, è l'errore di oggi, in quanto da 10 anni al-Maliki ha semplicemente cercato di impossessarsi di tutti i poteri possibili e immaginabili. Non è mai successo nella storia dell'Iraq che un primo ministro ha in mano il Ministero della Difesa, i servizi segreti, il Ministero dell'Interno, insomma tutti i poteri chiave della sicurezza, poi alla fine fallisce per difendere il paese, cioè una città di 5 milioni milioni di abitanti come Mosul, una città enorme, viene occupata in pochissime ore. Questo significa o c'è un accordo tra il Maliki e Daesh, anche perché questo non si spiega come mai Daesh in Siria combatte contro l'opposizione siriana a difesa del regime siriano e in Iraq invece contro il Maliki, che è alleato del regime siriano. E questa nuova Daesh, che lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, sarebbe la sigla, è composta oggi, diversamente da quella siriana, da soldati ufficiali dell'ex esercito iracheno, e per questo motivo sono così numerosi, sono così abili e in grado di sconfiggere l'esercito iracheno di Maliki, che poi è un esercito stato raccolto in fretta, addestrato in fretta e messo per le strade dell'Iraq. Quindi diciamo è l'errore che hai fatto oggi, ma sono dobbiamo preoccuparci noi occidentali, perché voglio dire, quando vengono dipinti come affiliati ad Al-Qaeda o come quando Miroslavo ci dice non sono certamente dei santerelle, cosa dobbiamo pensare? No, non sono santerelle, questo poco ma sicuro, perché è un'avanzata questa che poi alla quale assistiamo dalla Libia fino allo Yemen, fino alla Siria e poi chissà dove ancora. Però l'errore, diciamo, della comunità internazionale di non aver fatto nulla in anticipo, quando già questa cosa, situazione stava crescendo in Siria. Adesso sia gli americani intervengono, sarebbe un altro grave errore, perché si dirà come mai non sono mai intervenuti in Siria, adesso intervengono in Iraq. È chiaro, infatti diciamo la situazione è estremamente collegata. Allora, le 8:48 minuti, sentirei il parere di Loretta, ci chiama da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi chiedevo, l'analisi politica mi va bene, ma gli armamenti a tutte queste persone da dove vengono? Perché mi va bene Corano in mano, ma il moschetto chi glielo dà? Fausto Biloslavo, grazie Loretta, chi è che dà il moschetto? Ottima domanda, questi signori hanno fatto un accordo di non belligeranza con i paesi del Golfo, cioè gli hanno detto noi ci occupiamo dello Stato, appunto del nostro califfato fra Siria e Iraq, e voi ci date armi e soldi, e così è avvenuto, prima in Siria e secondo me adesso sta avvenendo anche in Iraq, perché non dimentichiamoci che lo scontro di fondo è eterno, atavico, è quello fra i sunniti, ovvero sia questi signori che stanno conquistando il loro califfato, e gli sciiti che stanno al potere a Baghdad, cioè, quindi due facce dell'Islam che si odiano da sempre. Fausto Biloslavo, la domanda però che Sergio Romano pone, che cova un po' nelle coscienze di tutti noi occidentali che ci siamo interrogati già allora, è: ma cosa abbiamo combinato? È stato un errore questa guerra, aver prodotto questa situazione, o come dice Yunis Tafi, che è stato soprattutto l'errore oggi, quello di non avere intercettato le modifiche, i cambiamenti? Ma allora, io le armi di distruzione di massa non c'erano, c'era solo una, che era Saddam Hussein, che era l'arma di distruzione del suo popolo, insomma, basta ricordare quando ha gasato i curdi. E questo però purtroppo, si è sempre detto, ci sono tanti dittatori nel mondo. Certo, ci sono tanti dittatori e abbiamo due pesi, due misure, insomma, con Saddam siamo andati a tirarli giù. L'errore è stato dopo, l'errore non è stata tanta l'invasione, ma dopo, è stato subito dopo, cioè gli americani sono abilissimi a vincere la guerra è a perdere la pace, come si è visto anche con 4.000 morti che hanno avuto sul terreno, e soprattutto l'errore è adesso non essersi resi conto che appunto il potere di Baghdad stava facendo carne di porco dei sunniti, che sono una minoranza, ma sono una minoranza consistente, proprio perché il premier e il potere è in mano agli sciiti, e il risultato è anche questo, il risultato è che i sunniti, non solo quelli che si ispirano ad Al-Qaeda, non solo con quelli con la bandiera nera dell'Islam, ma anche gli ex ufficiali ancora fedeli a Saddam, anche le tribù sunnite che erano state più o meno tranquille negli ultimi tempi, si sono ribellate, e il risultato è che una zona grande come almeno il nord dell'Italia, se non di più, è in mano appunto a questi estremisti islamici. Yunis Tafik, questo come impatterà, se impatterà, nel nostro mondo occidentale? Sì, anche perché questo darà di nuovo, se vinceranno e riusciranno ad entrare a Baghdad, questo avrà una ripercussione, perché tanti di loro sono giovani arruolati in Europa e dunque se ci sarà un ritorno, come è successo già in Francia e in Gran Bretagna, sarebbero guai per l'Occidente. Dall'altra parte, per quanto riguarda la politica, l'economia, è tutta una ripercussione grave sull'Europa e sull'Italia in questo caso, e per questo motivo io in tutti questi anni mi chiedevo come mai non si faceva nulla per intervenire o per circoscrivere questa crescita di Al-Qaeda. Una vittoria significa un incoraggiamento, come è successo dopo la vittoria di Khomeini, il ritorno in Iran e la caduta dello Shah, che poi ha dato questa grande spinta alla corrente islamica e al risveglio islamico, come si dice. Per cui oggi se Daesh vince vuol dire che è finita Al-Qaeda, inizia un'altra era, e quella era del califfato islamico di Daesh. Poi dall'Iraq chissà dove si stenderà ancora, ma io non credo che i paesi del Golfo saranno così tranquilli. Non c'è un accordo tra paesi del Golfo e Daesh di non belligeranza, ma c'è un accordo tra Qatar e Daesh. I soldi e le armi arrivano dal Qatar soltanto con disaccordo delle altre paesi. Che interesse ha il Qatar di alimentare questa vicenda? Ma il Qatar che sostiene per esempio i fratelli musulmani in tutto il mondo, Qatar che sostiene, probabilmente ha una strategia di stabilizzazione del nord della penisola arabica, e io non so cosa hanno in testa, sinceramente non riesco ad analizzarlo, perché questa politica è alquanto estranea per quanto riguarda la politica pacifista e che punta sulla crescita economica dei paesi del Golfo, mentre il Qatar probabilmente non è lo stato del Qatar, ma anche in Arabia Saudita ci sono alcuni emiri, alcuni ricchi che forniscono questi gruppi di estremisti islamici con soldi, armi, che poi addirittura ad esempio in Libia le armi ai fratelli musulmani arrivano dalla Turchia, e come si spiega questo non si capisce. Tra l'altro, Fausto Biloslavo, per concludere, oggi Sole 24 Ore racconta che in questa avanzata controllano anche molte delle raffinerie del paese. Questo potrebbe avere ripercussioni economiche anche sulla gestione del petrolio in Iraq, oppure le nostre mire lì sono un po' scemate? Le nostre mire sono scemate un po' dappertutto, purtroppo, però devo dire che certo il controllo delle raffinerie, soprattutto il puntare su città come Kirkuk, che è un serbatoio petrolifero, e soprattutto questo attacco anche ai turchi diretto, nel senso che quando sono arrivati a Mosul hanno conquistato il consolato turco e si sono presi in ostaggio una cinquantina fra diplomatici, familiari, dipendenti, insomma locali del consolato, è una novità, nel senso che dobbiamo ricordare che questi ribelli in Iraq che combattono contro Assad hanno come retrovia la Turchia, sono stati in qualche maniera appoggiati dalla Turchia, adesso si stanno rivoltando contro, anche per questo giugulare petrolifera che dal nord dell'Iraq va anche in maniera illegale verso la Turchia, ed è un aspetto interessante di questa vicenda. Ma l'altro aspetto, vorrei concludere, non dimentichiamoci che ci sono centinaia, alcuni dicono migliaia, 2-3 mila volontari che arrivano dall'Occidente, dall'Europa, dagli Stati Uniti. Due settimane fa in Siria un giovane ragazzo americano della Florida che si era innamorato dell'Isola, si è fatto saltare in aria in nome di questo. Questo certamente è un qualcosa che preoccupa moltissimo. Mi devo fermare qui, ma torneremo su questa vicenda. Ringrazio Fausto Biloslavo del giornale, ringrazio lo scrittore originario dell'Iraq ma da tanti anni in Italia, Younis Tafik, per essere stati con noi. Poi con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Buoni campionati del mondo a tutti, l'ho detto anch'io. E ci troviamo domani alle 6:30. 24 mattino.